un buon intervento dovrebbe essere non tanto sulla questione della democrazia quanto sul concetto di democrazia in Italia tra l'8 e il 900, cercando un po' di puntualizzare qual è l'evoluzione di questo concetto. Prendo lo spunto per partire da un intervento di Giuseppe Mazzini del 1850, in cui Mazzini sostanzialmente dice: la tendenza democratica dei nostri tempi, in modo ascendente delle moltitudini vogliose di entrare e partecipi nella vita politica e sottrarre al privilegio di pochi, non è oggimai più utopia di scrittore o grido d'agitatore senz'eco, è fatto potente, innegabile, fatto europeo. I due sono dati significativi di questa affermazione. Un dato politico, il primo, e cioè la volontà di allargare i confini della gestione del potere. L'altro, un dato chiaramente geografico, ma per questo non più importante, e cioè la dimensione ormai europea della tensione verso la democrazia. Potremmo forse dire che è una dimensione mondiale, visto il carattere democratico di cui stiamo parlando. Tuttavia, già dalle stesse pagine di questo intervento di Mazzini, si evince come la gestione democrazia sia un ventaglio dalle mille pieghe. Chi la vuole con un significato veramente politico, nel senso suffragio, chi con uno specificamente sociale, il problema dell'indeterminatezza dell'uguaglianza, chi infine ne dà una lettura prettamente economica. Se già avete dubbio che questo termine fosse usato ed abusato, ecco, forse non tanto, se noi perlomeno consideriamo le ultime valutazioni che ha fatto in merito Piero Santaloni, che ha pubblicato un saggio di recente sulla storia della parola democrazia, dove sostiene che in Francia solo a partire dal 48, dal 1848, la parola democrazia acquista una sua propria dimensione nel vocabolario politico. E la Francia ha un'influenza sul pensiero politico italiano, forse paragonabile a quella che ha nell'impianto della monarchia costituzionale piemontese prima e della nostra come Stato nazionale poi. Secondo la Santaloni, a partire dal 48, il termine democrazia prende a circolare perché non lo si legge più nell'ottica della democrazia degli antichi. Il passaggio attraverso l'elaborazione di Montesquieu, quelle dei costituzionalisti della rivoluzione, di Tocqueville, ha fatto acquistare questo termine prima una dimensione moderna, che consiste innanzitutto nella separazione del duplice significato con accurata la parola democrazia, sovranità popolare da un lato e governo del popolo dall'altro, con l'accentuazione del primo termine rispetto al secondo, per cui cade il problema dell'autogoverno e si pone quello della traduzione della sovranità attraverso il governo dei rappresentanti del popolo. Successivamente l'accento viene posto sul problema del rapporto governanti-governati, che siamo in metà della rivoluzione. Infine si passa alla fase della valenza sociale della democrazia, legalità di commissione, come ci ricorda Pierre Menon, per cui con Tocqueville diventa discintivi i termini sovranità popolare e democrazia. Una missione che apre la strada alla concezione contemporanea di questo lemma, per cui per dire più che un regime, più che una società, la democrazia d'ora in poi tradurrà una credenza comune nell'uguaglianza. Ecco, su questo fatto del 48, nel momento in cui la democrazia viene concepita non più secondo l'ottica degli antichi, ma in un'ottica nuova, per questo stesso tipo di lettura lo troviamo anche in Inghilterra. Infatti John Bradshaw e James Bryce nel 67 interviene sul problema della democrazia e afferma che non si può fare riferimento all'esperienza democratica degli antichi, ma occorre vedere l'esperienza della democrazia calata all'interno dei singoli contesti nazionali. Il riflesso di questa successione sul dibattito politico italiano negli anni tra l'8 e il 900 è prima il carattere fortemente politico che questo termine assume, per cui il problema della democrazia è sostanzialmente legato alla costruzione del representative government. Successivamente, ma siamo già nella fase novecentesca, dove il mutamento sociopolitico legato alla prima guerra totale segna pesantemente il tessuto sociale, va segnalato il passaggio verso una concezione sociale della democrazia. Democrazia, dunque, per il mondo politico della seconda metà dell'Ottocento, è, se non si può fare immediatamente riferimento all'assunzione del termine da parte dei partiti dell'estrema, i cosiddetti partiti democratici, la forma Stato che implica la costruzione di un governo rappresentativo. Attilio Bruniati scrive nella voce Democrazia dell'Enciclopedia Giuridica Quando i cittadini possiedono gli stessi diritti, i loro voti hanno uguale valore. La democrazia non raggiunge lo sviluppo politico completo, altro che dove tutti i cittadini sono elettori. Questa affermazione contiene due principi fondamentali: la definizione dell'elettorato attivo come diritto e il suffragio universale come postulato su cui poggia la democrazia. Poco importa se tutto l'impianto dell'intervento di Brugnanti è poi mirato a delimitare l'operatività di questa affermazione. Questo aspetto c'è un interlocutore, lo vediamo successivamente. A me questo dato interessa perché ci permette di cogliere a quale modello di democrazia vada ricondotta dal principio italiano ottocentesco. Quando ci confrontiamo infatti in ambito europeo con il sistema di impianto democratico, abbiamo immediatamente di fronte Francia e Inghilterra. In ambedue la valenza democratica passa attraverso un sistema politico basato sulla costruzione di un governo filtrato dal popolo. Ma mentre nel caso francese l'accesso del popolo alla gestione della cosa pubblica nasce nell'età della rivoluzione come un diritto, nel caso inglese il popolo government si costruisce sulla tradizione della rappresentanza propria di questo paese che non abbandona mai il principio fondante no taxation without representation. E questo neppure nel momento in cui i movimenti di riforma partono da una forte mobilitazione di quello popolare. Cioè, neanche nel periodo cattista, che è senz'altro quello diciamo, di maggiore democraticità a livello di richieste, l'estensione del diritto di voto viene, si allontana dal principio rappresentando la sezione. È vero che i cattisti chiedono il voto anche per gli internati di workhouses, ma secondo le guardioni di workhouses entrano anche i lavoratori manuali, cioè quelli che in quello precedente successivo avevano comunque, secondo questo principio, diritto al voto. Il concetto di democrazia che matura nel contesto italiano è invece quello proprio della storia politica francese, al di là di frequenti riferimenti al modello inglese, per il quale va sottolineata, peraltro, una recezione non sempre corretta. Spesso si guarda l'Inghilterra senza avere l'esatta percezione del background su cui la democrazia inglese si fonda, lo stesso termine democracy per il sistema inglese è meno frequente, mentre i termini normalmente usati sono representative government o popular government. Ed è abbastanza significativo per il fatto che si prenda le distanze dalla Francia, nonostante il modello sia proprio quello francese, e si invece idolare sostanzialmente il sistema inglese, quando tutto sommato sembra che la percezione iniziale di questo modello non sia esattamente quella che l'Inghilterra si è andata costruendo. Per verificare la percezione del termine democrazia nel contesto italiano, ho passato nel segno le principali riviste pubblicate tra 8 e 900 e ho considerato prima gli articoli che specificamente riportavano nell'articolazione il termine democrazia e che erano gli stessi che negli indici tematici venivano indicati come espressamente inerenti a questo tema, e ho ripercorso poi le relazioni sulla riforma elettorale preparate nel 82 da Lambertico, Camera e Senato, nel 12 da Bertolini e Torrigiani. La concezione di democrazia nel contesto ottocentesco è condizionata dal popolo delle masse. Sulle pagine di nuova antologia, Guido Padelletti interviene nel 69 pubblicando uno scritto dall'eloquente titolo Nuova fase della democrazia. Lo spunto è offerto dal dibattito che si sta svolgendo in Svizzera intorno alla riforma del sistema costituzionale varato nel 48. Ormai tutti ritengono che quel sistema di impianto rappresentativo abbia fatto il suo tempo e sia incompatibile col governo di sé che il movimento di riforma mira ad applicare in tutta la sua purezza democratica. Da qui la pesante critica al concetto di sovranità popolare, intesa come continuo ricorso al popolo per la ratifica dell'operato dei rappresentanti, mentre, secondo Padelletti, solo le classi colte possono impedire alla democrazia di degenerare verso il dispotismo. E, in contrapposizione al modello svizzero, considerato influenzato dalla Francia, si propone l'esperienza inglese in cui il principio della duplicità tra rappresentante e rappresentato è un dato acquisito per cui neppure l'Inghilterra si sentirebbe di sostenere il diritto di recall da parte degli elettori. Nel 78, nel 1968, interviene sempre su nuova antologia Luigi Palma con un articolo che prende lo spunto dalla pubblicazione dello studio di Erskine May, Democracy in Europe, lo stesso che poi avrà anche circolazione in Italia con la sua traduzione come primo volume della Biblioteca di Scienze Politiche Brugnanti. Il giudizio sul lavoro di May non è esaltante, non è nemmeno una completa storia della democrazia in Europa, scrive Palma. Talvolta pare sia un esame della libertà in genere anziché delle forme democratiche. forte di questa affermazione, parlano traccia quello che oggi potremmo chiamare una recensione del lavoro di May, ma parte da questo dato per analizzare in prima persona l'evoluzione della democrazia, passando dalla democrazia dell'antica a quella contemporanea, nella quale ovviamente sono collocate Francia e Inghilterra. La prima con una ferma condanna per il potere distruttivo del demos, la seconda con un plauso perché sempre ha saputo accogliere ed organizzare le richieste delle masse. L'insegnamento che si trae da questa rassegna è, secondo Palma, l'impossibilità di negare, a fronte della crescita dell'organizzazione, ma soprattutto della coscienza maturata del popolo, di un proprio diritto, la partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Tuttavia l'accesso del popolo al potere nella Costituzione va mediata da un lato dall'esistenza di caratteristiche che rappresentano una garanzia per l'ordine stabilito, quale di attuativa, intellettuale, economica e morale, dall'altro dal mantenimento delle forze e degli organismi atti a impedire che non si corrompa, che la forza numerica che incontra moltitudine diventi diritto e assorbe in sé il potere dello Stato a scapito dei diritti delle altre classi, della libertà e della cultura. A livello istituzionale questo si traduce nella negazione della giustificazione del principio di sovranità con onnipotenza del numero. Il problema è di ordinare la rappresentante del popolo in guisa che non riesca esclusiva rappresentante della moltitudine della sua maggioranza, ma che vi abbia in proporzione il giusto luogo le minoranze, o meglio i vari elementi sociali, e che la rappresentanza popolare non sia tutto nello Stato, ma che insieme ad essa siano vigorosamente costituiti un vero Senato moderatore ed un potere giudiziario indipendente dalle passioni e dai pregiudizi del demos. Sono qui perfettamente elencati tutti i punti base per un impianto dello Stato che deve fronteggiare la supremazia del numero. Ristrutturazione della rappresentanza, al fine di non consegnare in mano alla maggioranza che esce dalle urne la direzione politica del Paese. Parme, a fine di questi anni, ha dibattito intorno alla rappresentanza proporzionale. Siamo qui ancora in una concezione di proporzionalismo diretta a tutelare le minoranze qualitativamente superiori che resterebbero schiacciate da un sistema maggioritario coniugato col suffragio universale. Secondo, l'organizzazione del Senato. E questo è un altro dei grossi temi di Palma che, facendosi carico di un malessere circa la sperequazione tra Camera e Senato, peraltro da più parte sentito, proporrà alcune soluzioni operative a livello istituzionale, secondo le quali solo sottraendo la indiretta ma sostanziale dipendenza dalla maggioranza della Camera alla formazione del Senato, gli si potrà restituire pari dignità. Questo, se era un problema già sentito dal Cavour nel 1848, diventava più urgente a fronte delle continue istanze di allargamento del suffragio, quando non di corruzione del principio dell'universalità. Nella rassegna nazionale non ci si allontana dalla segnazione democrazia, diritto all'elettorato attivo, ma tuttavia vanno registrati alcuni timori legati alla matrice stessa della rivista, e cioè dal suo essere prodotta all'interno di quella corrente dei conservatori nazionali che, se sono fortemente sensibili alle vicende liberali dello Stato, sono non meno interessati a mediare in quei rapporti Stato-Chiesa che le note vicende italiane avevano pesantemente incrinato, comportando la formale, volontaria esclusione dei cattolici dalla vita politica con tutto il significato istituzionale della scelta e dell'astensione. Sulla scena nazionale, dunque, proprio il fattore Chiesa sposta il termine democrazia verso un modello più accentuato di democrazia moderata. In questa linea si collocano sia gli interventi mirati a fare del fatto religioso il necessario complemento della democrazia. La vera democrazia è solo quella che si fonda sui principi cristiani. Come pure gli interventi di Brugnati, più impegnato sul versante politico, a distinguere tra la vera e la falsa democrazia, tra il popolo vero e il falso, ribadendo che comunque la forma stato della democrazia non può che essere quella propria del sistema rappresentativo. E qui, con una caduta grossolana, Brugnati collega il sistema rappresentativo esclusivamente ad un problema di estensione geografica. Cioè, Brugnati dice, dopo la formazione degli stati nazionali non era più possibile che il popolo fosse convocato tutto il Parlamento sulla pubblica piazza. In questa dissertazione, dove il popolo è sinonimo di popolaccio, facile alle passioni, incline ai viaggiatori, dove la falsa democrazia è quella che ci arriva dalla rivoluzione della storia politica francese, con il popolo costantemente in armi contro il potere costituito, dove pure il modello americano, che esclude la parte migliore del popolo, dal governo, nonostante il vero, e con le parole di Macaulay, lo secondo in condanna al fallimento per opera dei suoi stessi figli, Brugnati salva, con un'operazione audace, l'esperienza democratica italiana, sostenendo che, forti della nostra storia, noi siamo politicamente una vera democrazia perché la nazione è sovrana, il governo è nelle mani dei governanti e l'interesse del maggior numero è garantito dalla volontà del maggior numero. Il pericolo a cui è sottoposta questa democrazia così organizzata, dove si sostituisce con un colpo di mano il termine nazione a quello di popolo, è ovviamente rappresentato dalle masse, che qualora non si inseriscano in questo modello secondo i canoni che il potere politico stabilisce, facilmente possono spostare l'asse di equilibrio trasformando quella che è una democrazia in una regina. Ammonisce infatti Brumiati: per conservare la libertà bisogna usarla moderatamente, agli eccessi della libertà inibirlo la perdita sua. Unico intervento di un certo respiro sulla scena nazionale è la presentazione di una lettura fatta da Carlo Alfieri di Sostegno al Circolo Filologico di Firenze sul tema conservazione, libertà e democrazia. Siamo nell'81, quindi in pieno dibattito parlamentare per l'allargamento del suffragio, e Alfieri si chiede quale altra via di ringiovanire lo Stato e rendere più fecondo e gagliardo la sovranità nazionale se non far entrare le forze nuove della democrazia italiana nella cucina della vita politica per disciplinarle e ridurre gli strumenti di governo. D'altronde questa posizione è conseguente della concezione che Alfieri ha di conservazione. Cito un attimo: se noi persuadiamoci una buona volta, la vita è tutta moda ed azione nel mondo morale come nel mondo fisico. L'immutabilità è morte, quindi se vogliamo conservare i vivi, non già imbalsamare dei morti, persuadiamoci che non è conservare, impedire, comprimere e reprimere. Nella politica la conservazione non è fatta per creare nulla né per sopprimere nulla, ma per regolare, moderare e adoperare ogni cosa. È in una parola la politica stessa, e non va politica buona se non quella che è conservativa della società umana. Potremmo dire la democrazia va costruita, e questo è il versante su cui la storia politica italiana fa costantemente acqua. Per cui si promuove in teoria la democrazia, pensando poi di poter utilizzarla tra uso e consumo, farne cioè, per usare le parole di Alfieri, a un'azienda di polizia generale, un gran protettorato degli occhi dei gaudenti e del buon tempo degli sfaccendati. Proprio Alfieri invece si era fatto carico nel suo ambito di avviare questo processo di canalizzare la democrazia, ponendosi negli anni 70 il problema della costruzione della classe dirigente con l'avvio del Cesare Alfieri di Firenze, quella scuola di scienze politiche che aveva preso a modello l'esperimento francese di Soutine. Sul finire del secolo, la riforma sociale, la rivista diretta da Francesco Nitti e Luigi Ru, ospita un intervento di un professore di sociologia dell'Università di Ginevra, Louis Barrain, sull'organizzazione della democrazia in Svizzera. L'articolo pubblicato senza nessuna premessa della redazione porta l'espressione di un coautore di quel sistema politico dove gli istituti della democrazia diretta stanno progressivamente entrando nell'impianto costituzionale dello Stato. Il sovrano teorico è divenuto il padrone effettivo, la democrazia rappresentativa ha lasciato posto ad un sistema di democrazia diretta che a quanto pare non è giunta a termine nella sua evoluzione. L'autore sottolinea l'importanza in questa trasformazione degli istituti del referendum, del diritto di iniziativa e della rappresentanza proporzionale, istituti che vengono presentati in quanto esportabili, non cioè validi esclusivamente a fronte di un background politico come quello svizzero, fortemente incentrato su un sistema concentrico di antichi corpi che conservano in parte il sistema degli iure libertatis. D'altronde, l'utilizzo del termine mandatario al posto di rappresentante sottolinea il rapporto specifico di delega che restituisce la sovranità all'elettore sottraendolo all'eletto. I termini del dibattito sono inusuali per il contesto politico italiano, dove il principio del mandato imperativo è, in linea con la tradizione europea, negato, dove anche a livello di prassi parlamentare vengono rifiutate le dimissioni qualora il risultato non motivi con la sopravvenuta impossibilità di mantenere fede agli impegni presi con i propri elettorati. L'ospitalità data dalla riforma sociale all'articolista svizzero non può essere evidentemente letta come volontà trasposita dell'esperienza elvetica al sistema politico italiano, può invece essere considerata come l'utile confronto dei vasti e inesplorati campi di realizzazione delle democrazie moderne. L'accezione democrazia è dunque per il contesto ottocentesco italiano, se si fa eccezione per un breve intervento su politica sociale, da cui si evince una propensione a considerare le valenze sociali della democrazia come fondamento di quelle politiche e non viceversa, sinonimo di governo rappresentativo. Il problema vero che fa da sottofondo a tutti gli interventi è come comprimere questa rappresentatività senza chiuderla in proforme anacronistiche, affinché l'asse di equilibrio definita dallo statu quo non venga pericolosamente compromessa. In questo senso vanno lette le relazioni di Zanardelli e Lamberti sulle riforme elettorali dell'82, che rispettivamente alla Camera e al Senato presentano la necessità improrogabile di un allargamento del suffragio, recependolo nell'accezione di diritto, ma nello stesso tempo esprimendo la forte necessità di contenere la potenziale onnipotenza del numero. Col passaggio del secolo, anche il significato attribuito al termine democrazia tende ad evolvere. Innanzitutto va rilevata la maggior frequenza dell'uso di questo termine come sinonimo dei partiti democratici, e qui soprattutto critica sociale, che nel tentativo di autodefinire la specificità del socialismo prendendo le distanze dai radicali repubblicani, mischia un po' le carte. I socialisti sono diversi dai democratici, finché la democrazia non funziona, devono sostituirsi ad essi. Solo successivamente, in una realtà politica veramente democratica, i socialisti potranno fare i socialisti. E questo è il succo dell'intervento di Filippo Turati, che mette in evidenza l'ambiguità dell'utilizzo del termine. Notevole interesse investe invece l'intervento di Gaetano Mosca, pubblicato sulla riforma sociale nel 1903, in cui, ribadendo la nota teoria secondo la quale il governo è comunque sempre nelle mani dell'aristocrazia, prende lo spunto per definire cosa si può tenere e cosa si deve invece buttare del termine democrazia. Se con democrazia si intende il governo affidato alla maggioranza dei cittadini, è evidente che l'affermazione si trova in netta contrapposizione con il principio sostenuto da Mosca, quindi l'affermazione viene ritenuta di attuazione possibile. Se invece con democrazia si intende l'accessibilità con un grado sociale aperta a tutti in diritto e di fatto, la scomparsa di vantaggio dovuta alla nascita nella lotta per la preminenza sociale, secondo Mosca questa affermazione, non contraddicendo la teoria del governo della minoranza, non va negata ma va esaminata e discussa. Già in questa duplice lettura si intravede tuttavia il passaggio da una concezione meramente politica del termine democrazia ad una sociale che si riflette sul politico ma che non lo predisce in primo istante. Nei tre anni poi che vedono il dibattito, l'attuazione, la prima prova del suffragio quasi universale maschile dall'11 al 13, particolarmente vivace appare il confronto politico che implica trasversalmente anche una certa concezione di democrazia che si svolge sulle basi dell'unità di Salvemini. Un primo intervento è proprio di Salvemini, ribadendo dalle colonne dell'unità la sua antica posizione a favore del suffragio universale, che lo aveva visto dalle file del Partito Socialista contrastare le posizioni di Turati e Bonomi. Salvemini attacca la linea che vuole ancora il suffragio legato ad uno speciale corredo di cultura e la considera un tentativo di basso profilo per escludere dal diritto medesimo vaste donne della classe lavoratrice, oppure una conseguenza del vecchio pregiudizio democratico, il quale parla del tutore la fonte di ogni autorità, l'autorità di tutti i poteri, l'arte e la scienza politica una specie di idolo semidio appellato al popolo sovrano. Per Salvemini l'esercizio dell'elettorato attivo è molto più semplicemente la possibilità offerta all'elettore di promuovere o bocciare quei rappresentanti che nel loro mandato non si sono interessati nei bisogni del corpo elettorale. Inutile quindi voler fare dare letture dottrinarie, il sistema rappresentativo come traduzione del governo del popolo è dato per scontato e l'elezione risulta strumentale alla corretta attuazione di questo sistema finché non si perde di vista il termine a quota cui la rappresentanza parte. Su una posizione più articolata si pone invece l'assunzione del termine democrazia da parte di Simone Stato. Il primo aspetto interessante di questo intervento su democrazia e partiti è il dare per scontato che comunque il governo di una nazione è sempre aristocratico, nel senso muschiano del termine. Partendo da questo postulato si arriva a condannare poi la volontà di contrapporre intelligente cultura al numero di interessi materiali, perché questo significherebbe dare plasta al professionismo politico di avvocati, giornalisti e letterati, mentre gli uomini di alta cultura sarebbero comunque sempre esclusi. A fronte di questa analisi, lo Stato legge la forma Stato democratica come un modello in cui la funzione di governo non è esercitata sopra le masse, ma è un costante rapporto dialettico con esse, per cui le elite che detengono il potere possono mantenere la loro posizione solo nella misura in cui il rinnovamento del personale politico è un dato reale e il consenso delle masse è l'autorizzazione a perseverare nella gestione del potere. Altro indice di vecchiamento e consenso sono dunque le caratteristiche che permettono al governo di pochi di mantenersi e riprodursi. Queste tesi lo Stato le ribadisce l'anno seguente quando, prendendo lo spunto per una critica all'opera di Nicker sulla sociologia del partito politico nella democrazia e di quella di Delisi sulla democrazia e finanziaria, ribadisce come non sia possibile pensare che la democrazia sia il governo diretto di maggioranza e morte. Secondo lo Stato la democrazia ha bisogno di gerarchizzarsi, restando tuttavia una gerarchia aperta. Siamo di fronte ad una società in cui le classi si moltiplicano e alla testa di ogni classe vi è un'elite che deve interagire col governo e con i propri rappresentanti al tempo stesso, trovando la sua legittimazione solo nel suo consenso. Ma questa definizione di democrazia non è altro che la costruzione di un modello di Stato in cui i partiti intervengono nella decisione politica offrendosi come canale di regolamentazione dell'obbligazione politica. La cura di queste democrazie malate può essere perduzzata solo alla pratica della democrazia, il che tradotto significa opera paziente di propaganda, di organizzazione, di diffusione della cultura, affinché la partecipazione alla democrazia diventi effettiva. Siamo qui completamente calati in una lettura del sistema politico fatta con gli occhi del nuovo secolo ed è distante anni luce dall'idea di Luigi Luzzatti, che appena 2 anni prima proponeva sul colonne di comatologia come cura delle democrazie malate l'adozione di sistemi elettorali intesi a far penetrare nelle Camere i rappresentanti delle minoranze. Non è casuale che all'interno dello stesso intervento Luzzatti Claudessa è l'opera di Ostrogoschi, l'autore che in questo inizio secolo, forse più di ogni altro, ha letto la struttura dei partiti, nuovi intermediari della politica novecentesca, con gli occhi del vecchio secolo. Negli anni che seguono il primo conflitto bellico, la crisi dello Stato diventa eclatante e ancora più pratica appare la carenza di progettualità politica della vecchia classe liberale, che nel rifiuto di leggere l'apporto dicotomico esistente tra Stato e società, ha sempre creduto, secondo lo schema orlandiano, che la società esistesse in quanto Stato e non viceversa. E come riflesso di questo assunto non si è mai impegnata nella costruzione reale della nazione, la PMP si problema della carenza operativa a livello politico del passaggio dalla state building alla nation building, per cui l'assenza di un processo di nazionalizzazione, la cosiddetta costruzione degli italiani, segna profondamente la carente costruzione della stessa democrazia italiana. Significativo che la crisi della crisi del sistema liberale travolga proprio quell'idea di democrazia dei partiti che in Italia non aveva ancora avuto piena cittadinanza politica. Dalle pagine di Unità, dove era maturato il rifiuto del partito come struttura monopolizzante, Angelo Crespi nel 20, considerando il rapporto deputati-corpo elettorale, offre una distinzione tra società e folla. Società è l'insieme di corpi organici che interagiscono ed esprimono, tra i diversi, istanze che si compongono e trasmettono al deputato un intero sentire che è ciò che il deputato rappresenta in Parlamento. Folla invece è un insieme inorganico dei cittadini, la forza del numero che si lascia governare solo da demagoghi che imboniscono. Il rapporto deputato-elettore in questo caso diventa una sorta di mandato imperativo interpretato, che si fonda su quella macchina politica a circuito chiuso che ha rappresentato dal sistema dei partiti attivi in Italia. L'organizzazione politica non può dunque essere più l'ambito privilegiato di costruzione della democrazia, come Attiglieronia scrive sulla nuova antologia nello stesso 1920. La democrazia o sarà sociale o non sarà. Sono troppo anguste le basi della democrazia politica perché possa reggere. Grazie.